Ma quanto sono belli i pezzi allegri, i pezzi felici. A noi milizia piacciono un sacco. Vero Racno? Lince con la milizia post-atomica, naturalmente. Cosa ti aspettavi? Vuoi ridere un po'? Non è facile porsi di fronte ai fatti e prenderli per come sono. È molto meglio fingere che un giorno tutto sarà buono. Tutto sarà nuovo, tutto sarà uomo. E l'uomo sarà umano e non sarà più solo. Rappo lento, così mi segui. Ma tanto poi capisci il male che c'ho dentro e dopo ti dilegui. È facile stare vicino a persone solari. Vincenti sono i migliori nella piazza degli affari. Con la foto nella borsa dei parenti più cari. Con dei miti appesi in camera, sorrisi straordinari. Io quindi fingo, ergo, fingo, senza scarpe verso un'altra tappa. Da tergo mi parla, bla sabbia dentro la fabbrica. Rabbia, la formichina operaia, sibila, grida in battaglia. Me ne fotto di un parere, non lo chiedo. So che mai è solo un velo, so che il cielo c'è l'arresto. E il resto è solo un buco nero. In uno sputo d'universo, ogni verso si perde dentro il proprio ego. Smettila di chiedermi se ho voglia di guardare. La retina fa male, nascondimi il reale. Smettila di credere che possa migliorare. Il mondo è sempre uguale, aspetta il gran finale. Smettila di chiedermi se ho voglia di guardare. La retina fa male, nascondimi il reale. Smettila di credere che possa migliorare. Il mondo è sempre uguale, aspetta solo il gran finale. Il mondo è sempre uguale, aspetta solo il gran finale. Ad escludere l'amicizia ogni persona poi scompare. Crescendo in mezzo alle immondizie, baci tra i fiori di catrame. Poi in mezzo non si riesce a respirare. La piccola fiammiferaia cerca di rinfilare la mano nella mia tasca rubandomi la medaglia. Spintoni per spostarla e spintoni per ritrovarla. La giovinetta rubava portando un pegno alla guardia. L'impegno di sta bastarda nel lucido quarto d'ora. Ognuno spera di sbagliarsi ma in cuor suo poi si innamora. La gente assai felice ad esprimersi all'incontrario. Misurando la radice della lentezza con cui mi sfracella il cranio. Battiamo sul corrimano in marmo e corriamo man mano nella mano. Lanciandoci da uno scoglio qualcuno sarebbe felice che io mi uccidessi. Qualcuno estremamente felice che lo detesti. Qualcuno forse pochi orgogliosi dei compromessi. Qualcuno solo gli idioti che basano